grande silenzio qui intorno a me. Sono qui sul mio letto, allungo una mano, sento un gran freddo e non capisco perché. Il tuo posto a capo tavola è sempre là, ti ho coperto il piatto, gli amici mi cercano, dai vieni con noi, preferisco stare con lei. Gatto ti cerca, i fiori vogliono l'acqua, il pavimento è sporco, c'è polvere sul comò, ma che serve mai pulire? Mi sembra di impazzire, ho voglia di gridare, ho voglia, ho voglia di morire. Se ne è andati i fiori appassiti, amore vengo da te. L'avevo comperato soltanto un anno fa, volevo andare a Thank you. vita hai un posto importante che ti dà gloria e ti rende potente. Non ti importava di fare il cretino pur di salire il famoso gradino. Non hai pensato neppure all'amore, tutto il tuo tempo l'hai speso in dovere. Tu che guardavi sempre davanti, non li vedevi ed erano in tanti, e si fermavano per pregare, non li vedevi, avevi da fare, non ti curavi del bene e del male, eri occupato a salire le scale. La sicurezza di essere assolto, tu uomo ricco, tu uomo colto, la spina negli occhi di questi fratelli che non conosci e credevi ribelli. Ora capisci in quale maniera sarebbe giusto aspettare la sera. Ora capisci in quale maniera sarebbe giusto aspettare la sera. Senti gelare, hai sentito l'ora e cominci a tremare. Sei stato cieco e adesso non sai chiudere gli occhi, imparare a everything alone. She just died the trouble thing for so long. Thank you. diciamo no a ipocriti e borghesi, a chi è in malafede, a chi non sogna che ricchezze, ai falsi venditori di parole. Diciamo no ai conservatori, a tutta quella gente che vuole tutto come sta. Diciamo no. Diciamo no a chi non ci permette di parlare. Vietato. Pensare che tempo fa, se praticavi l'onanismo, eri punita per il tuo bene, eri salvato dalla pazzia. Bimbi e bambine, ragazzi e ragazze, venivano legati nelle mani e nei piedi, venivano picchiati sui genitali, venivano salvati da spaventosi malanni. Thank you. faccia fosse Vangelo, noi vivremmo in un mondo di pazzi. Se tutto ciò fosse Vangelo, il mondo sarebbe pieno di mostri. Thank you. sentirsi vecchi, se gli anni che hai sono così pochi, sentire il bisogno di stare seduti, sdraiarsi per terra e dormire soltanto, sognare di fare cose grandiose che poi in fondo non ti senti di fare. Sentire il bisogno di piangere, se gli anni che hai sono così pochi, non avere la forza nemmeno d'amare, solo di stare da solo con te, non fidarti nemmeno dell'amico più caro, non avere il coraggio di pensare a domani. Pensare a mangiare soltanto, se gli anni che hai sono così pochi, pensare solo a soddisfare te stesso e ignorare ciò che ti circonda. Oggi è vero, c'è chi lavora per te, ma domani solo cosa farai? visto piangere un uomo ricco, ho visto piangere un derelitto, ho visto piangere un soldato, ho visto piangere un ammalato, ho visto piangere un politicante, ho visto piangere un delinquente, ho visto piangere anche un prete, ho visto piangere le false. Piangere gli assassini, ho visto piangere una donna innamorata, ho visto piangere il capo di un'armata, ho visto piangere per un'idea, ho visto piangere mamma mia, ho visto piangere anche Dio, ed ho il diritto di piangere anch'io. Piangere anche Dio, tento il diritto di piangere anch'io. Ho visto piangere anche Dio. Di sassi e cespugli spinosi, io ti ho incontrata con lievile amore, uno sguardo ed un tuffo nel cuore. Eri vestita di verde, verde prato, t'ho messo un fiore tra i neri capelli, gioco la testa che tu avrai pensato al velo bianco e dai nostri due anelli. E come per gioco il tuo corpo nell'acqua si offriva e spariva, ridevi felice, ho preso coraggio e mi sono tuffato, e il sole ad un tratto si è come oscurato, e il sole ad un tratto si è come oscurato. Go! 10 anni quella volta che l'inchiostra a scuola sporca il mango. Quattro gambe sulle mani, la madre superiore mi rifilò. Come piangevo. Di Branda mi faceva gli occhi. c'era mai nessuno ad aspettarmi. Ed ora non ho il coraggio di cercarmi una donna mia. Son sicuro mi prenderebbe in giro e non saprei sopportarlo. Continuo a masturbarmi e son convinto non avrò mai un figlio. Thank you. lì in quella pozza di sangue. Hai gli occhi sbarrati ancora dal terrore. Le stelle bruciare, hai visto il mare diventare grande, hai visto la lava scendere giù a valle, hai visto le serpi sputare il veleno. Sbranare i tuoi figli, hai visto le acque portarsi via tua madre. Sullo sterco, hai visto i tuoi fratelli chiedere perdono, hai visto la luce gridare condanna, hai visto